Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Lieutenant Dan was always getting these funny feelings about a rock or a trail or the road. So he'd tell us to get down. Shut up. Get down! Shut up! Thank you. La gente mi accompagna in una stanza con un tavolo e due sedie. Non ci sono finestre, solo la foto del mio amico Jesus appiccicata con lo scotch dietro la porta. Mi capita la sedia macchiata. Mentre mi rivesto provo a immaginare lo scorso fine settimana, gli istanti rugginosi che sgocciolano giù dai condizionatori sulla città, i cocker che accostano il muso agli irrigatori e rimediano una botta. Vernon Gregory Rito? La signora mi offre una costoletta alla griglia, però lo fa controvoglia e francamente vi piangerebbe il cuore ad accettarla vedendo il fremito che le scuote il triplo mento. Rimette giù la mia costoletta e ne pesca un'altra per sé. Cominciamo dal principio. Abiti al numero 17 di Beulah Drive? Sì, signora. Altre persone residenti? Nessuno, soltanto mia madre. Doris Eleanor Little? La salsa barbecue la sgocciola sul distintivo col nome. Vice sceriffo Vane Gurry, c'è scritto. E hai 15 anni? Età complicata. Ma che? Mi sta pigliando per il culo? Do una strofinatina alle Nike, così tanto per sostegno morale. Ci vorrà molto, signora? Sgrana gli occhi per un attimo, poi li strizza, riducendoli a una fessura. Vernon, qui si parla di complicità in omicidio. Ci mettiamo il tempo che ci vuole, ma allora... Non dirmi che tu e quel messicano non eravate culo e camicia. Non dirmi che non sei praticamente il suo unico amico. Non azzardarti proprio. Ma signora, cioè, chissà quanti testimoni ci sono che hanno visto meglio di me. Niente meno, si guarda intorno. Qui però... Non mi pare di vedere nessun altro. Vedi qualcuno tu? Come un coglione mi guardo intorno. Boh. Incrocia il mio sguardo e lo rimette a fuoco. Signorino, lo hai capito o no perché sei qui? Credo di sì. Meno male. Allora il mio compito è quello di scoprire la verità. Prima che tu pensi, beato chi ci riesce, vorrei ricordarti che, staticamente, la vita su questa terra è regolata solo da due forze. Sai dirmi le due forze su cui si basa la vita su questa terra? Boh. Ricchezza e povertà? No. Sbagliato. Il bene e il male? No. Causa ed effetto. E prima che cominciamo, dimmi quali sono le due categorie di persone che stanno su questa terra. Me lo sai dire quali sono queste due categorie dimostrate? Quelli che causano e quelli che si beccano l'effetto? No. I bravi cittadini e i bugiardi. Ci sei, signor Little? Ci sei o no? Questo era ancora l'incipit di Vernon God Little di DBC Pierre. Profumo di eclettica. You might as well. Due nomi nuovi per quanto riguarda le playlist di Eclettica ad aprire questa seconda parte. Il primo da Copenaghen, Slara Finland, o qualcosa del genere, guardate la playlist. Formati nel 2002 e che usciranno il 25 di giugno con un nuovo album dal quale ci siamo ascoltati Polaroids. E poi siamo andati indietro nelle playlist di Eclettica, ma non di tantissimo, solo al 2004, un corto tragitto con la nostra macchina del tempo quest'oggi. In quell'anno, nelle playlist di Eclettica compariva spessissimo un nome, il nome dei Clint, formazione inglese uscita con un album omonimo dal quale ho estratto Shut It Down e che da quell'anno non ho più sentito nominare. Cleveland, he was from Detroit. Hey, Tex. Man, what the going on? And Tex with... Well, I don't remember where Tex come from. Strip down to your big toe. Strip down to your big toe. You wanna share your life, share your life, but don't give it all away. You wanna open up, but have a light inside. You stay. Se scorrete le playlist delle ultime settimane di Eclettica vedreste comparire il suo nome molto spesso, Khan. Però probabilmente non ha ancora speso nessuna parola sul suo nuovo album per Tomlab. L'artista di origine turca e finlandese, cresciuto a Francoforte, che ora fa di base a Berlino e che fra l'altro qualche anno fa fu ospite anche qua in Eclettica in un'intervista, quando in Eclettica le interviste avevano spazio e non lo hanno più invece adesso in questo nuovo formato. Ecco, si era rivelato allora anche un personaggio molto eccentrico e sicuramente questo poi ha anche un riscontro nella musica che Khan fa e che è molto eclettica, quindi molto legata, se vogliamo, anche al nome di questa trasmissione. Sono due i brani che io sto estraendo da Who Never Rests, e che alterno all'interno delle playlist. La scelta di oggi è caduta su Strip Down. Rispondere: no, sono al lago con quelle stronze delle tue figlie. Ma sto zitto, magari non ce le ha proprio le figlie. Adesso mi passo tutta la giornata a pensare a come avrei dovuto risponderle. Che situazione del cazzo. Il vice sceriffo Guri addenta una striscia di carne da un osso, le penzola dalle labbra come un pezzo di merda risucchiato su. Che cos'è un bugiardo lo saprai, immagino. Un bugiardo è uno psicopatico, uno che tra il bianco e il nero disegna le zone grigie È mio dovere avvisarti che le zone grigie non esistono, i fatti sono fatti, altrimenti sono bugie. Ci sei? Sì, signora. Me l'auguro di cuore. Puoi dirmi dove ti trovavi alle 10:15 di martedì mattina? A scuola. Sì? E che materia avevi? Matematica. Guri abbassa l'osso per fissarmi. Quali punti importanti ho appena finito di spiegarti, sul bianco e sul nero? Non ho mica detto che ero in classe. Bussano alla porta giusto un attimo prima che mi si squaglino le Nike. Un testone color mogano fa capolino nella stanza. E qui Vernon Little? C'è la madre al telefono. Va bene, Elena. Guri mi scocca un'occhiata che dice: vedi di non rilassarti, e con l'osso mi indica la porta. Seguo il testone moganato nella sala d'attesa. Sarei un sacco contento, cazzo, se non fosse mia madre a chiamare. Detto tra noi, è come se alla nascita mi avesse piantato un coltello nella schiena e adesso le basta aprire la bocca per rigirarlo. E lo affonda anche di più, ora che non c'è papà a prendersi la sua razione di coltellate. Quando vedo il telefono, le spalle mi si afflosciano, mi cade la mascella. Lo so già come se ne uscirà, col solito cazzo di piagnucolio da martire in croce. Dirà: Vernon, stai bene? Sicuro. Questo era ancora l'incipit di Vernon God Little di DBC Pierre. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 35, volume numero 3, indice, Jonette Napolitano, Hot Chip, Larrikin Love, Piano Magic, Spoon, Montag assieme a Final Fantasy, Slara Fenland, Clint, Modest Mouse, Can, AU.